dinamica che ha la qualità di promuovere l'energia rinnovabile e l'energia pulita, che ha la qualità di promuovere la base del lavoro. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.